e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora Nicoletta, secondo te a chi non piacerebbe affacciarsi al mattino e ammirare anche con questa nebbia la città di Milano dall'alto del bosco verticale? Chissà se ci sente qualcuno che abita lì e ce lo racconta. Magari. Ci racconta che effetto fa. Pensa che solo una settimana fa proprio il bosco verticale si è aggiudicato il premio, credo che sia l'ennesimo riconoscimento, come miglior architettura del 2015, assegnato da una grande istituzione di Chicago, ne parleremo tra poco, ma lo staranno pensando i nostri ascoltatori, non molti possono ambire ad abitare qua, però tutti possiamo immaginare la casa dei nostri sogni. Ah certo. Sognare non costa nulla. Che potrebbe essere proprio lì. Ecco, la casa è sempre uno degli investimenti che più appassionano gli italiani. Proprio in questi giorni in cui si fa un gran parlare di tassazione, noi a Cuore Denari torniamo ad osservare invece il mercato immobiliare, chiedendoci qual è il suo stato di salute, come è cambiato negli ultimi anni, e soprattutto chiediamo anche a voi di raccontarci all'800 24 00 24 qual è, che caratteristiche ha la casa dei vostri sogni, se la state cercando, qual è il principale ostacolo che ancora vi impedisce di realizzare questo progetto, questo sogno, e se questo progetto pensate di metterlo prossimamente in cantiere. E a proposito di cantiere, noi parleremo anche fra poco con uno degli architetti che ha firmato proprio il bosco verticale, Giovanni Lavarra. Insieme a lui e insieme ad Andrea Polo di immobiliare.it cercheremo di vederci più chiaro anche nel passato del mattone italiano, nel presente, e ci faremo anche qualche idea sul futuro. E a proposito di vederci chiaro, Deborah, oggi nella seconda parte del programma, vero che no, Filippo Oreggi sa che faccio sempre qualche pasticcetto, per questo mi adora. Allora, ci occuperemo di chi fa fatica a vedere lontano. Parleremo di miopia, il difetto di vista più diffuso, che secondo i recenti dati dell'OMS sarà in crescita nel prossimo decennio, tanto che le stime prevedono che i miopi nel mondo nel 2020, quindi ci siamo, saranno oltre 2 miliardi di persone. Numeri naturalmente che descrivono una vera e propria epidemia, ma attenzione, qualcosa si può fare: prevenzione per i bambini e correzione per gli adulti. L'occhio miope, lo sappiamo, è un occhio delicato che può essere maggiormente esposto a dei rischi e quindi non va trascurato. Se siete miopi, se avete corretto la vostra miopia, se avete notato un cambiamento, chiamateci e raccontateci anche sfide e fatica a cui sottoponete i vostri occhi. Raccontatecelo, insomma, come vedete, se passate molte ore davanti al computer, se avete mal di testa, se pensate di affidarvi alla chirurgia. 800 24 00 24 e se vi siete già fatti operare, raccontateci al nostro numero verde se siete soddisfatti di questa operazione, se la rifareste, se la consigliereste ad un amico. Non l'ho messa per ballare, quindi. Però io ballo, stiamo calmine. Che tu parli, io muovo le gambette. Per il tema di denari oggi parliamo della croce delizia degli italiani, il mattone delizia, perché è da sempre uno degli investimenti preferiti delle famiglie. Gli italiani preferiscono avere la casa di proprietà piuttosto che andare in affitto. Croce perché la tassazione degli ultimi anni è stata rivisitata più volte, creando grande incertezza fra chi punta al mattone anche come investimento ed asset dal quale trarre reddito. Noi oggi facciamo un'analisi di questo mercato da un punto di vista un po' originale. Guarderemo indietro nel tempo facendo un salto di 10 anni, con l'obiettivo di gettare lo sguardo in avanti, magari per un periodo di tempo altrettanto lungo. Vi spiegherò tra poco perché abbiamo dato questo taglio alla trasmissione, ma intanto vi chiedo: voi alla casa che rapporto, quando avete potuto comprarla o avete l'obiettivo di fare questo investimento entro qualche anno? Come vedete, anche dal punto di vista estetico, la casa dei vostri sogni? Esprimeteci i vostri desideri, perché tra poco avremo un grande architetto al quale magari chiederemo se si tratta di progetti fattibili o no, anche a seconda del luogo e della città in cui abitate. Intanto saluto Andrea Polo, direttore della comunicazione di immobiliare.it. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno e benvenuto. Non so se Filippo è pronto, ma io avevo preparato una canzone. Non è il compleanno di Andrea, perché qua siamo tutti dei gemelli e lo festeggiamo tutti quanti a giugno. Il compleanno che abbiamo da festeggiare è quello di immobiliare.it, che è il più grande portale di annunci immobiliari in Italia. Quest'anno appunto festeggiate il 10° anno di attività e avete pensato, Andrea, di celebrarlo proprio ieri con un evento sul tema passato, presente e futuro della casa italiana, evoluzioni e tendenze del mercato immobiliare fra il 2005 e il 2025. Allora, se ci guardiamo indietro in questi 10 anni, noi ricordiamo bene il fallimento di Lehman Brothers, la crisi del credito, l'esplosione dei tassi interbancari, quindi l'esplosione in un certo momento anche delle rate dei mutui degli italiani, poi il mercato immobiliare in caduta, l'inizio della lenta risalita. Questi temi principali dal punto di vista finanziario, ma ci vuoi arricchire un po' questo salto indietro nel tempo? Cosa è successo per il mattone italiano? Beh, di sicuro si parte dai numeri, e quindi quelli che citavi prima sono senza dubbio la realtà che ciascuno degli operatori del settore immobiliare, ma anche semplicemente dei proprietari o degli aspiranti Italia, ha vissuto. Quindi una contrazione dal 2005 delle compravendite importantissime, contrazione che adesso per fortuna incomincia a risalire. Ma quello che è importante mettere in evidenza secondo me sono soprattutto due fattori. Intanto che è cambiato il modo di cercare la casa. Oggi già più della metà delle ricerche, si parla del 63% delle ricerche, avviene tramite il web, e questo chiaramente consente di avere maggiori informazioni, anche di risparmiare tempo, per cui evitiamo di fare corse nel traffico per andare a vedere degli appartamenti che poi una volta aperta la porta scopriamo che non sono adatti alle nostre esigenze. Quindi intanto lì si fa già una grande prima selezione, no? Esatto. Cernita. Esatto. E poi in Italia comincia anche a essere compreso il fatto che la vera ripartenza dell'immobiliare parte dalle riqualificazioni e dalla rielaborazione di realtà già esistenti, con un particolare occhio d'attenzione all'efficienza energetica. Già oggi gli immobili che sono efficienti da un punto di vista energetico, parliamo di quelli delle prime classi, quindi la classe A, B, al limite arriviamo alla classe C, si vendono molto più in fretta, mediamente si parla del 18% di tempo risparmiato sulla vendita rispetto ad un immobile già di classe D, quindi non parlo delle FG o quant'altro, e soprattutto ad un prezzo maggiore, quindi mediamente il 12% in più, che insomma sono dei guadagni. Sono dei bei soldini, insomma. Allora magari raccontateci anche voi se avete effettuato una ricerca della casa che intendete comprare secondo i criteri che ci ha indicato poco fa Andrea Polo. Per esempio, l'efficienza energetica è stato uno dei parametri importanti a cui avete guardato, oppure un aspetto secondario, poi avete magari pensato la ristrutturerò e quindi la riqualifico io dal punto di vista energetico, magari traendo vantaggio anche dagli incentivi fiscali che ormai sono diventati più o meno strutturali nel nostro paese, con percentuali differenti a seconda del governo e dell'anno di cui parliamo, ma bene o male un bel risparmio fiscale si può fare per chi fa lavori di questo tipo. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Volevo ricordare che nel 2014, secondo l'Agenzia delle Entrate, le compravendite di case nel settore residenziale in Italia sono state 421.000, si stima che quest'anno possano essere un po' di più, 468.000, ma siamo praticamente quasi alla metà rispetto al top che è stato toccato qualche anno fa nel boom immobiliare italiano. Allora, Andrea, oltre a tutto quello che ci hai raccontato, lo stato di salute del mercato immobiliare italiano a giudicare dal vostro particolare osservatorio, che è quello di chi cerca la casa dei propri sogni su web, appunto, qual è? Che tipo di metrature si cercano? Quali altri movimenti rileva questo mercato in questo momento? Allora, intanto partiamo da un dato: le case in Italia sono vecchie. Sì, su questo siamo tutti d'accordo. Circa il 65% delle case ha più di 30 anni, che quindi sono veramente tanti. Da un lato questo è un bene, paradossalmente, perché diventa meno gravoso anche da un punto di vista sentimentale capire che forse è il caso di rifargli il make-up, anche con degli interventi strutturali che vengono richiesti sempre di più. Oggi dal punto di vista di chi cerca, ad esempio la domotica è uno degli elementi fondamentali che diventano addirittura un discrimine fra il vado o non vado, certo, a vedere la casa. Magari spieghiamo che cos'è questo concetto, tutto quello che ci racconta della casa intelligente, quella che ne so, che magari puoi, di cui puoi attivare l'antifurto dal lavoro attraverso il telefonino, no? Banalmente faccio l'esempio. Sì, o anche diciamo che esistono delle domotiche di primissimo livello, come che ormai sono veramente molto diffuse, le tapparelle elettriche, forse sono l'antisignano di questo, e poi si arriva alla regolazione della temperatura struttura interna, certo, della sicurezza della casa, anche dell'accensione delle luci, esatto, esatto. Per cui in realtà oggi abbiamo un acquirente che è molto attento, è molto preciso, è molto esperto in questo genere di richieste. Paradossalmente lascia un po' in disparte cose fondamentali, per cui nel momento in cui vogliamo comprare una casa, sapere se questa è esposta a nord o a sud è un aspetto che trascuriamo, è un aspetto che trascuriamo, ma insomma non è una questione da boy scout, serve a capire quanto servirà a riscaldare quella casa. Ci sono gli architetti che possono aiutarci in tutto questo. Fra poco ve ne presento uno di primo ordine, però Nicoletta, prima abbiamo un impegno con il palinsesto. Dobbiamo andare a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, ma ritorniamo subito dopo insieme a voi, a tra poco. Cuore e denari. E allora, come sta cambiando il volto del patrimonio edilizio italiano? Che scelte fanno gli italiani? Noi lo chiediamo sempre agli esperti di quotazioni, ma mai a chi invece si occupa direttamente di questo patrimonio. Raramente facciamo parlare gli architetti, l'ultima volta è successo a Cersaie, ci siamo fatte questo bel giro in questo salone di Bologna dedicato a... Magnifico. Non all'arredamento, ma che insomma piastrelle, tutto quel mondo là, esatto. Noi oggi abbiamo il piacere, insieme ad Andrea Polo, di avere con noi anche l'uomo che insieme ad un team davvero incredibile ha messo la firma su un progetto che, tra i vari riconoscimenti che ha ottenuto in questo ultimo anno, proprio venerdì scorso ne ha preso un altro, ha vinto un altro premio come miglior architettura del 2015, assegnato dal Council on Tall Buildings and Urban Habitat di Chicago. Parliamo del Bosco Verticale, il complesso di due torri residenziali di 111 metri e 78 metri che appartengono al progetto Porta Nuova del nuovo centro direzionale di Milano. Buongiorno e benvenuto all'architetto Giovanni Lavarra, fondatore dello studio Barreca Lavarra, docente di progettazione architettonica all'Università di Udine. Ho detto tutto correttamente, architetto, perché qua... Tutto corretto. Grazie. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a voi. Architetto, che effetto le fa essere l'artefice o tra gli artefici di quella che viene considerata un'icona dell'architettura internazionale contemporanea? Sì, è un progetto che abbiamo realizzato insieme al mio socio Gianandrea Barreca e a Stefano Boeri, e che ci ha dato grandi soddisfazioni perché appunto ha immediatamente, diciamo, individuato una sua, un suo carattere, una sua identità molto forte, un edificio popolare fortunato e che ha la fortuna insomma di avere vinto un po' la scommessa che si era posto, cioè di cercare di costruire letteralmente un edificio verde e di cercare di integrare il più possibile gli elementi vegetali e gli elementi di lì. Tra l'altro un'architettura talmente bella che poi tutta quella zona ha ben pensato di comprarsela un fondo sovrano, quello del Qatar, che è diventato proprietario unico di Porta Nuova, tanto per farvi capire anche la modalità con cui quest'area di Milano si sta riqualificando. A proposito, è un po' il cuore pulsante adesso della, sì, veramente, c'è Piazza Gaia Aulenti, la torre di Unicredit, bellissima. Architetto Lavarra, proprio a proposito di riqualificazione delle città italiane, gli italiani come stanno mettendo mano a questi lavori nelle loro case? Che cosa vede lei in giro? Si mette le mani nei capelli o tutto sommato possiamo fare un bilancio positivo, tenuto anche conto del fatto che la crisi economica ha ancora un suo peso, ma che comunque ci sono anche gli incentivi fiscali messi sul piatto dallo Stato, che in questi anni aiuta, sono stati e sono ancora significativi? Sì, la crisi economica costringe a lavorare con più creatività per certi versi, anche se in questo momento gli italiani sono molto guardinghi, stanno ancora valutando cosa fare. Il patrimonio dismesso è enorme, è grandissimo, e purtroppo in questo momento non ci sono modelli, nel senso che non si capisce bene qual è la cosa migliore da fare rispetto a un patrimonio in mano alle famiglie. Come sapete, l'Italia è un paese di proprietari di case, sì, abbiamo quasi l'80% di case in proprietà, e quindi diciamo è un momento in cui apparentemente non ci sono modelli trascinanti, non ci sono modelli da copiare. I modelli arrivano dal mercato oppure arrivano dal pubblico. L'ultima volta che il pubblico è riuscito a garantire un modello è stato la grande ondata dei sottotetti a Milano, che in qualche modo ha configurato un modello pubblico da copiare, ma in questo momento diciamo mancano un po' questi modelli. Ma è così fondamentale che ci siano? Ma è così fondamentale, così importante che ci siano, architetto, oppure comunque anche un pizzico di originalità è necessario? Occorrono proprio dei modelli da seguire, secondo lei, per riqualificare adeguatamente il patrimonio edilizio del nostro paese? Sì, per modelli non intendo tanto un modello fisico, ma un insieme di strategie finanziarie, strategie di recupero, strategie di trasformazione dello spazio, anche funzionali. Pensi all'enorme patrimonio delle seconde case che usiamo, da quello che risulta dalle statistiche, 5 giorni all'anno in media. Quindi un enorme capitale mobilizzato in un patrimonio di seconde case che usiamo pochissimo. Pensi ai borghi abbandonati in tutta Italia, che sono anche un problema ecologico molto forte, perché il borgo abbandonato vuol dire il territorio abbandonato. Pensi ai capannoni, insomma, abbiamo un enorme patrimonio, in questo momento dovremmo concentrarci tutti su come recuperarlo e forse anche eventualmente valutare una scelta radicale che non è stata fatta mai nel nostro paese, cioè di demolirne una parte, di tornare a una condizione di naturalità e di recuperare, come dire, respiro per il territorio. Insomma, questa è la visione anche creativa ed artistica del nostro architetto. Sentiamo Andrea dalla provincia di Pavia che tipo di osservazioni ha su questo argomento, che è sempre molto molto bello a seconda del punto di vista, meno quello fiscale, meno bello lì, però... tutto il resto invece molto avvincente. Andrea dalla provincia di Pavia è un agente immobiliare, vero Andrea? Benvenuto. Sì, buongiorno. Grazie, buongiorno, grazie per avermi chiamato, è un piacere ascoltarvi. Le osservazioni che volevo fare erano due. La prima è che ci sarebbe da riflettere sul fatto che un fondo sovrano acquisti in toto un'area così importante nel centro di Milano. Che, d'accordo, dal punto di vista economico sicuramente interessante, dal punto di vista economico italiano lo direi un po' meno. La seconda invece è una considerazione da agente immobiliare. Vedere che ci sono degli immobili in questo bellissimo condominio, palazzo, come si vuol chiamare, che sono messi sul mercato in locazione a cifre che io considero folli, nell'ordine dei 3-4 mila euro al mese per immobili da 70 metri, tutto qua. Andrea, abitare lì è uno status, ha ragione, non è che debba esserci il mercato, è anche questo per cui dobbiamo prenderne atto, ma architetto Lavarra, le ho fatto fare un altro mestiere oggi. Abitare in questo edificio è certamente un vero privilegio, non è alla portata di tutti, ma appunto, ritornando un po' al nostro discorso, se vuole commentare ovviamente quello che diceva Andrea è totalmente libero di farlo, ma quali altri, tra virgolette, boschi verticali ci sono in giro per l'Italia? Quali sono i progetti comunque più interessanti in corso, a prescindere da quello che lei diceva e suggeriva bisognerebbe fare? Ma che cosa viene fatto in questo momento? Ci sono delle chicche italiane da poter raccontare ai nostri ascoltatori qualora non ne conoscessero? Chiudere entro 30 secondi, tra l'altro. Sì, guardi, ci sono, diciamo, più delle strategie che si stanno mettendo in moto, che sono strategie in cui le energie private e le energie pubbliche si stanno convergendo. Sono strategie che tendenzialmente vanno a coprire la fascia di mercato che il nostro ascoltatore diceva, appunto, diciamo, non essere quella del bosco verticale, cioè case a basso costo, social housing promosso dai privati e in qualche modo con regia pubblica. Queste sono le operazioni più interessanti che si stanno svolgendo in Italia e che andranno a coprire una fascia di mercato che in questo momento ha una domanda, ma il mercato non riesce a soddisfare. Grazie all'architetto Lavarra. Social housing è un tema che affronteremo in una prossima puntata di Cuore molto. E Denari. Andrea Polo rimane con noi, noi andiamo a sentire il giornale radio. Le informazioni radio. Del sì. nostro GR. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Angelo, non prendere impegni per il 2 di dicembre. Che cos'altro abbiamo in agenda? Ma è possibile che devo dirti tutto io? Saremo tutti alle 20:30 all'Auditorium Gruppo 24 Ore in via Monte Rosa 91. Per Chiedimi se sono felice live. Sì, mi ricordo, l'ho segnato sull'agenda, segnatevelo in rosso anche voi. Sarete lì con noi, avremo diversi ospiti e parleremo della felicità. Che cosa ci rende felice dei nostri amici animali e come noi possiamo rendere felici. Per ricevere l'invito della serata dovete andare sul sito di Radio 24 e compilare il form dedicato all'evento. Ciao! State ascoltando un programma offerto da Uliveto ti aiuta a digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. Avanti. D'accordo. Tienili chiusi. D'accordo. Bene. Apri gli occhi. Da piante. Fin qui niente da ridire. Ti piace? Piace? È amore a prima vista. Ebbene sì, la Carrie Bradshaw di Sex and the City ha convinto le donne di mezzo mondo dell'indispensabilità di una cabina armadio gigante in cui ostentare il proprio guardaroba che prima veniva chiuso in soffitta, oggi in disuso ad ogni cambio di stagione. Andrea Polo, direttore della comunicazione di immobiliare.it, anche questo è un aspetto importante nel progettare la nostra casa dei sogni, il tema di cui stiamo parlando questa mattina, sul quale abbiamo cercato di coinvolgere i nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Il vostro portale immobiliare.it, appunto, che proprio ieri ha celebrato con un evento a Milano i suoi 10 anni di attività, ha delineato le tendenze attuali dell'abitare, quelle che influenzeranno i prossimi 10 anni delle nostre abitazioni. Facci fare un viaggio nel futuro della casa dell'italiano. Allora, nel futuro la casa sarà sempre più interconnessa fra gli spazi, ma anche con il suo proprietario, con chi la vive, e continuerà a essere anche molto influenzata da quelli che sono i modelli esterni, modelli che, come diceva giustamente, come si sentiva correttamente nella clip prima, sovente arrivano dai media, per cui abbiamo anche assistito a un'evoluzione per cui negli anni 60 o negli anni 70 si andava dall'architetto, da chi progettava la casa, con la rivista in mano, mm-hmm. un po' come si va dal parrucchiere, voglio i capelli come Carrie Bradshaw. E anche tu. Anche io vorrei i capelli, indipendentemente dal fatto che fossero come quelli della Bradshaw, però oltre a quello, invece, in realtà poi i modelli hanno continuato ad evolversi, per cui negli anni 80 hanno cominciato sulla scia di alcune pellicole famosissime, penso ad American Gigolo, penso a Flashdance, tutti volevano il loft, pensando poi magari di trasformarsi in Richard Gere, che ne so, questo non si sa mai. Ognuno fa i suoi sogni, una però fata compaia improvvisamente in e poi in realtà magari si arrivava a una triste realtà, che il loft in Italia o non esiste, o se esiste è un discorso molto diverso. La stessa cosa, rimanendo in ambito cinematografico, è stato poi l'epoca di Ghost, il film con Whoopi Goldberg e Patrick Swayze, ha fatto lo stesso Demi effetto. Moore, cioè, e anche Demi Moore. Sì, una giovanissima e lacrimosa Demi Moore, che volevano tutti la postazione per fare la ceramica, anche quello in realtà molti hanno incominciato a volere lo spazio per gli hobby, magari non era la ceramica, era la pittura, però questo di sicuro. Poi ci si scontra con la realtà dei fatti, per cui ad esempio il loft tecnicamente non è un locale residenziale, quindi non ci si può prendere un mutuo, ad esempio, però anche lì il marketing. Ah, davvero? Per uno che fa un acquisto di un loft non può fare la sottoscrizione di un mutuo per tecnicamente il loft non è un residenziale. Vedi, non è tu una... che dopo tutti questi anni tra salvadanaio e cuore denari neanche lo sapevo. Però attenzione, che spesso viene definito loft quello che loft non è. Un mezzo, quindi, magazzino, insomma, esatto, industriale da, esatto, recuperare. E oggi, tornando a quello che invece è l'influenza, ad esempio si cerca di avere delle cucine enormi, alle volte abnormi, perché bisogna essere adesso i master chef cooking show, è proprio l'architetto Lavarra, in un incontro che abbiamo fatto qualche tempo fa, ci raccontava una cosa divertentissima di un cliente che voleva un'isola enorme, e lui non riusciva a fargli capire che fisicamente non ci stava in casa fino a che non gliel'ha tracciata per terra con lo scotch, e a quel punto posso mettere l'isola, ma tu non ci passi. Certo. Questo è il... Parliamo della cucina che è nei sogni di Nicoletta. Ah, si può dire, perché non possiamo fare pubblicità, quel brand è molto molto famoso. Bellissima. Però ce l'ha proprio bella stampata in testa, e chissà che non ne riesca. Vedi, un desiderio. Paola da Roma, buongiorno. Buongiorno. Ma benvenuta. Che bella voce, ma che carina, come ci fa concludere bene la settimana, Paola. Grazie a voi, dopo queste notizie è il minimo. Ci dica tutto. Beh, io non sono tanto proiettata nel futuro, perché vivo a Roma in un quartiere come Cinecittà, e diciamo il patrimonio immobiliare qui risale agli anni 50-60, mm-hmm. e dico solo che nel condominio in cui vivo io ci sono circa 1200 persone, è un piccolo paese. Mm-hmm. E abbiamo ciascuno 3 balconi, le case sono più o meno tutte uguali nello stile dell'epoca, E volevo sapere, non tanto il bosco verticale, perché potete ben capire che È difficile trasformare un palazzo anni 50, certo. Ma il giardino verticale, ci sono delle regole di condominio che non prevedono minimamente una architettura esterna. Sì. Eppure direi che se tutti questi balconi che vedo, compreso il mio che sto al settimo piano, dovessero essere verdi, sarebbe molto più carino. Allora, parlavamo proprio fuori onda. Tra l'altro, Paola, non abbiamo più l'architetto Lavarra adesso con noi, che magari poteva esprimere una considerazione di natura tecnica sul suo caso, magari gliela facciamo fare in privato se avrà la pazienza di scriverci. Detto questo, Andrea, magari non so, il giardino, uno spazio verde è oggetto di ricerca? Sì, un'altra delle tendenze che abbiamo visto negli ultimi anni è addirittura non soltanto il giardino, lo spazio verde, ma anche il mini orto, per cui il balcone che comunque prende una parte di questa sua metratura sovente, magari nelle case proprio degli anni 50-60, come diceva Paola, anche abbastanza grandi, abbastanza numerosi per portare in città un minimo di natura e quindi avere il proprio orticello, nel senso letterale del termine. Paola, io ho messo però i pomodori, comunque. Tu quest'anno anche l'avocado hai, figuriamoci. E poi mi è nata una piantina di avocado che è un segno facerò del cielo, quindi questo bisogna. Certo, guarda, io nel mio balconcino c'ho tutto. No, però quello che diceva Paola in realtà mi ha fatto venire in mente un altro elemento che abbiamo visto cominciare a nascere e diventerà sempre più vero nei prossimi anni. Quindi Paola parlava delle 1200 persone in termini, se vogliamo, negativi. In realtà quello che noi stiamo vedendo è che condomini così numerosi, o comunque sia in cui incominciano ad arrivare persone che hanno le stesse esigenze, diventano, soprattutto nelle grandi città come Milano, come Roma, una sorta di comunità. E quindi se prima si condivideva soltanto il giardino, si incominciano a condividere determinati altri elementi, quindi ad esempio si condivide il wifi e quindi se ne paga uno e lo sfruttano due o tre appartamenti, e addirittura diventano anche degli elementi importanti per la gestione della famiglia, per cui un giorno i bambini li vado a prendere io, il giorno dopo li vado a prendere tu. Un po' il concetto del social housing anche in questi contesti, ma in realtà poi Paola ha parlato di un piccolo paese, sì, forse non ne ha dato un'accezione positiva nel modo in cui ne parlava, perché ha sottolineato un po' gli aspetti problematici di vivere in quella realtà, ma di piccolo paese ha anche parlato. L'ultima domanda gliela assegniamo a Gabriele D'Ancona, ma lo sentiamo piacere, velocemente. Come si può non sentire Gabriele che arriva proprio da Ancona? Gabriele, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, finalmente parlo con la mia concittadina. Eccolo là. Allora. No, io ho sentito un po' di cose, siccome vengo da un'esperienza appena di acquisto, volevo fare due o tre considerazioni, vediamo se riuscite a darmi un vostro parere, visto che avete quello. Ce ne faccia due velocemente, Gabriele, perché qua il tempo velocemente, ci sfugge prima di cosa, mano. Allora, io ho appena acquistato un immobile che è vincolato e ho sentito l'altro giorno in TV che c'è un progetto con la legge nuova di stabilità di far diventare tutti gli immobili vincolati storici o a 1 o a 8 o a 9, cioè volevo sapere se è una cosa che sapete, perché è un po' preoccupante visto che dopo la tassazione aumenterebbe molto. E poi volevo anche sapere se secondo voi c'è una, insomma, verrà in porto questa cosa della nuova rivalutazione catastale a seconda dei metri quadrati o quello che è, perché anche questo inciderà molto sulle compravendite. Abbiamo fatto una puntata proprio pochi giorni fa, Gabriele, sul catasto online e sul progetto di riforma del catasto, che ormai dovrebbe diventare una realtà procrastinata da troppi anni, direi, perché qua bisogna fare una fotografia dello stato reale del patrimonio del paese, proprio per le motivazioni che lei diceva. Quindi in realtà noi siamo ancora a bocce ferme, esattamente come sta lo Stato, il governo. È però, come dire, una riforma pronta che ha solamente bisogno di essere varata. Si sa benissimo in che strada bisogna percorrere. Non so, Andrea, che tipo di considerazioni possiamo rilasciare a Gabriele. È assolutamente corretto quello che dicevi tu, perché poi tra l'altro le due domande di Gabriele sono chiaramente legate l'una all'altra. Dico anche che le prime volte che si parlava della riforma del catasto era il primo ministro Romano Prodi, quindi insomma stiamo aspettando da un po' di tempo. È una cosa che comunque in qualche maniera dovrà essere presa in considerazione per n motivi, è però qualcosa che anche da un punto di vista squisitamente tecnico ha delle difficoltà non banali, quindi bisogna stare ad aspettare, esatto, perché mancano ancora troppi elementi. Gabriele intanto si goda questo momento magico della sua vita, appena fatto un investimento, magari la casa dei suoi sogni, la arredi per bene, poi sulla fiscalità quando arriveranno i problemi li affronteremo, che cosa vuole che le dica. L'ultima curiosità volevo chiedere ad Andrea, perché sempre nei vostri osservatori di immobiliare.it, perché lui veramente ne elabora sempre di avvincenti, attraverso il loro portale sono state vendute le case di Mike Bongiorno, non so quali altri VIP possiamo ricordare, ma è vero che le case moderne non hanno più corridoi? È verissimo. Quello che prima, così come non hanno più gli ingressi, prima come erano degli spazi, l'ingresso separato. Le case, sì, con quei corridoi lunghissimi. Quando io ero ancora dotato di capelli, dicevamo prima esisteva la sala d'ingresso, esistevano, certo, i corridoi. Oggi questi sono l'antonomasia dell'errore di progettazione, esatto, perché sono spazi sprecati. Oggi non possiamo permetterci di avere. Adesso c'è il living. C'è il living e non possa c'è la cucina a vista o la cucina che diventa living, ma non possiamo permetterci di avere 10 metri quadri sprecati per l'accoglienza, solamente per da percorrere, perché per il metro quadro costa e quindi si fa di necessità virtù, come si diceva ieri. A me gli ingressi, i corridoi eccetera mi piacerebbero molto, sì, ma considera che 2 metri quadri in più o in meno a Milano costano quanto una panda, per cui... ma uno fa di necessità virtù, perché anche le case di una volta che erano, no, così divise, lo spazio notte, lo spazio giorno, il corridoio, avevano il loro fascino. Tu chiama la barra, si sapeva dove era il nord. La barra, ecco, gli voglio, ecco, poi te lo disegna come ha fatto con la cucina del signore precedente, ti dico quanti metri poi quadrati stai sprecando. Possiamo anche, no, essere tranquilli e contenti della nostra stanzetta, ma insomma. No? Ma il mondo è bello perché è vario, per carità del cielo. Però Andrea, grazie, complimenti per la vostra attività, di nuovo auguri per il compleanno che avete festeggiato, una grazie gran mille. Bella società, insomma immobiliare.it, ti richiameremo presto con le vostre inchieste avvincenti. Vincenti, adesso che si fa qua? Guarda che bussano tanti alla porta anche sul tema di cuore, e te lo noi, dico già. E noi continuiamo a vederci chiaro. Venerdì all'orizzonte si comincia a intravedere il weekend e questo già ci solleva il cuore. Ma se si approfitta della fine settimana per trascorrere anche un po' di tempo all'aperto, la raccomandazione è rivolta soprattutto ai bambini, ci guadagna anche la vista, perché allenare l'occhio, non solo la mente, a guardare lontano aiuta. Ma ci sono persone, lo sappiamo bene, che non sono, per così dire, attrezzate per vedere lontano, parliamo dei miopi, il loro numero, come abbiamo anticipato, è destinato ad aumentare. L'OMS infatti ha lanciato proprio in questi giorni, e per questo ne parliamo, un allarme: secondo i dati, nel prossimo decennio il numero delle persone miope salirà a circa 2 miliardi e mezzo nel mondo. E allora che fare? Ne parliamo oggi insieme al professor Francesco Bandello, direttore della clinica oculistica dell'Università Vita Salute, Istituto Scientifico San Raffaele di Milano, che per cuore e denari è una garanzia. Meno male, il nostro oculista preferito. Buongiorno e tornato. Buongiorno. Mamma mia. No, diciamo però, che anche la professione del futuro è quella dell'oculista, perché se diventeranno miopi così in tanti, fatto... bisogna necessariamente rinascere, perché sennò io ne vedo poco bene di questa cosa. Grazie molte dell'invito, grazie molte. Allora professore, stiamo parlando del difetto della vista più frequente al mondo, solo in Italia ne affetto il 25% della popolazione. I numeri sono destinati ad aumentare, ma come mai? Allora, come mai fondamentalmente non lo si sa, però diciamo due cose di premessa, ma proprio brevi. Sì. L'occhio miope è un occhio che è sostanzialmente più lungo del normale, o perlomeno è un occhio in cui il fuoco delle immagini, che dovrebbe andare a formarsi proprio sulla retina, anziché formarsi sulla retina, si forma davanti alla retina. Che cosa succede? Che quando tu guardi da vicino, il fuoco delle immagini tende a spostarsi verso la retina, quindi il difetto visivo è come se si riducesse nel miope, sì, e da vicino riesce a vedere bene. L'atteggiamento del miope, che toglie gli occhiali e avvicina tantissimo il testo all'occhio, è proprio frutto di questo, mentre da lontano purtroppo vedi male, perché questa immagine si forma davanti alla retina, si forma tanto più davanti alla retina quanto maggiore il difetto visivo. Quindi se uno ha una grande miopia, vuol dire che l'immagine si sta formando tanto, certo, davanti alla sua retina. Cosa fare? Purtroppo non lo sappiamo. Sappiamo per certo però che se tu lavori molto da vicino, quindi sei molto impegnato a leggere, come fa tipicamente lo stereotipo del topo di biblioteca, sì, allora tu sei costretto ad accomodare molto. Cioè sei costretto a fare con un muscolo che c'è all'interno dell'occhio uno sforzo che ti porta a fuoco le immagini sulla retina, ebbene se tu questa cosa la esasperi, la continui a fare a lungo, è come se facessi diventare l'occhio miope, miopizzi l'occhio. Si ritiene che questo stereotipo del topo da biblioteca corrisponde un po' poi alla realtà, nel senso che probabilmente noi ci stiamo impegnando in un lavoro da vicino sempre di più, in una misura sempre maggiore, viviamo sempre di più in spazi ristretti, i nostri lavori avvengono sempre di più all'interno di una stanza piccola, sempre meno negli spazi ampi degli agricoltori, dei pescatori, di tutti coloro che nelle passate generazioni lavoravano fuori, e probabilmente questo impegno da vicino concorre a far diventare più miopi gli occhi. Se sia questa l'interpretazione più corretta non lo so, ma sicuramente è una delle ipotesi che vengono fatte più frequentemente per giustificare questo aumento di frequenza. Quindi questi numeri sono in parte legati alle abitudini di vita? Probabilmente sì, ma c'è da dire anche però che c'è una importantissima componente genetica razziale nel determinismo della miopia, tant'è vero che ci sono delle razze, quelle asiatiche, si arriva in Cina, in Giappone, credo che sia esperienza comune, sono tutti miopi, certo. Non ce n'è uno che non sia sono miope. Più, sì, sono più miopi in Oriente che rispetto all'Occidente. Sì, professore, allora, intanto volevo commentare con lei un dato dell'Università di Cambridge che sostiene, no, un po' la tesi delle abitudini di vita come una delle cause, perché la miopia possiamo considerarla una patologia multifattoriale, e quindi la diffusione sempre maggiore dei computer, ma anche la riduzione delle ore passate all'aria aperta. Secondo i dati, per ciascuna ora in più alla settimana che un bambino trascorre all'aria aperta, il rischio di diventare miope diminuirebbe del 2%. Professor Bandello, è così? Ma guardi, io non sono in grado di dire. Sono dei dati un po', mi sembrano dei dati forti. Sì, io non sono in grado di dire se sia così o meno, non ho sicuramente evidenze che mi aiutino a rispondere sì o no, non ho motivo di ritenere che vengano scritte delle bugie, no, certo. Ma sarebbe altro. Quindi, ma questo ci aiuta a pensare che i nostri bambini... diciamo che si torna un po' a quello che si diceva prima. Certo, a giocare un po' fuori. Se noi abbiamo una vita che soprattutto nell'età infantile, che ricordo è quella poi più importante per determinare le modalità di sviluppo dell'apparato visivo, e se tu soprattutto nei periodi, diciamo, dell'imprinting dell'apparato visivo consenti al bambino di avere questa esperienza negli ambienti ampi, negli spazi grandi, è verosimile che lo sforzo accomodativo sia minore e pertanto lo aiuti ad avere uno sviluppo più... Le voglio leggere un messaggio che è arrivato al 349-238-6666, sì. Potete anche whatsapparci, si dice così. Brava. Ecco, allora la miopia aumenta, ma i medici tendono solo a correggere il difetto. Molto spesso basterebbe un approccio più olistico e un po' di rieducazione visiva per limitare i peggioramenti. Un commento, professor Bandello? Ma io non sono un grande sostenitore, come mi sembra di capire l'interlocutore, il nostro ascoltatore, del fatto che si possa arrestare lo sviluppo della miopia semplicemente con degli esercizi piuttosto che con altri tipi di approcci olistici. Hai voglia di parlare di approccio olistico quando c'hai il bimbo che ti vedi aumentare dalle 6 alle 7 alle 8 dioptrie nell'arco di pochi mesi, di pochi anni? Sì, c'è poco da parlare di approccio olistico, è una patologia vera e propria dell'apparato visivo con un allungamento dell'occhio patologico che, insomma, vedo poco spazio per immaginare soluzioni olistiche a un problema che è veramente oculistico. Ecco, l'SMS del nostro ascoltatore mi fa pensare ancora che tanti genitori credono che mettere presto gli occhiali sia dannoso, quasi che ci sia un legame fra l'uso degli occhiali anche precoce e il peggioramento della miopia, è così? Allora Nicoletta, lei ha detto una cosa che è importantissimo dire. Lo ridica due volte, perché non è che mi lei capita. Dice sempre cose no, cose no, giustissime. Non mi... ecco. Allora, no, è vero, io ricordo da bambino che il concetto era, secondo alcuni genitori, non mettere gli occhiali, perché se tu metti gli occhiali abitui l'occhio a quella correzione e poi avrai bisogno di una correzione più forte successivamente, o viceversa. Devi mettere gli occhiali perché se non metti gli occhiali il difetto di vista aumenta. è falso sia una affermazione così come è falsa l'altra. La correzione ottica serve a vedere bene, punto, cioè serve a spostare l'immagine che sta al davanti del piano retinico, spostarla sul piano retinico e far vedere come d'incanto nitidamente il bimbo in questo caso o in generale il paziente. Che tu li metta o non li metta non cambia nulla nelle modalità evolutive della miopia, modalità evolutive che dipendono da altre cose, che sono l'allungamento dell'occhio oppure una refrazione errata da parte della cornea del cristallino. Allora, ma puoi sperare di cambiare le cose perché tu metti o non metti gli occhiali. Gli occhiali servono a vedere bene, punto. Punto. Allora, professor Bandello, la miopia si può correggere, ne parleremo tra poco, anche se non tutti i miopi sono candidati all'intervento. Lei ci aiuterà a vederci chiaro. Ma prima di parlare di come e se eliminare il difetto, vorremmo dedicare qualche minuto anche ai segnali che un miope non deve sottovalutare: stanchezza, mal di testa, ma anche proprio segnali visivi, e quindi ne parleremo tra poco, subito dopo le informazioni della borsa, che tu le vedi chiarissime davanti pronta, a te. Io sono pronta, le vedo proprio qua lucidamente davanti a me, belle messe a fuoco, insomma. Allora, intanto, prima dei numeri della borsa, vi ricordo il nostro numero verde per prenotare i vostri interventi all'800240024. Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Uliveto ti aiuta a digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. E io ti guarderò con gli occhiali dell'amore e ti vedrò attraverso le lenti dell'amore e mi metterò allora, in bocca. Allora, torniamo ad affrontare il tema del giorno. Occhiali, siete miopi, portate gli occhiali, state accarezzando l'idea invece di buttare gli occhiali alle ortiche, quindi di sottoporvi ad un intervento di chirurgia refrattiva o già l'avete fatto. 800 24 00 24, in linea con noi oggi il professor Francesco Bandello, direttore della clinica oculistica dell'Università Vita Salute, Istituto Scientifico San Raffaele di Milano, con cui stiamo commentando l'allarme lanciato in questi giorni dall'OMS, che sottolinea appunto che questo difetto refrattivo, tra l'altro molto diffuso, sta aumentando. Prima di dare la parola agli ascoltatori che stanno chiamando numerosi al nostro numero verde, professor Bandello, io vorrei dedicare qualche minuto ai segnali che un miope non deve sottovalutare. Ci sono due tipi di sintomi, sì, diciamo, che sono importanti da considerare. Stiamo parlando di miopi di una certa entità, ovviamente, sì, perché non vorrei poi creare allarme eccessivo. Un sintomo sono i lampi, quelli che noi chiamiamo fotopsie, e che in pratica consistono nel fatto che a occhi chiusi o ad occhi aperti, soprattutto in un ambiente relativamente poco illuminato, improvvisamente si nota che nella periferia in genere del campo visivo si apprezza una luce intermittente, un po' come quando il neon, che non funziona bene, cerca di accendersi e non ci riesce. Sono questi, sì, flash di luce che si ripetono continuamente. Questa cosa, quando si ripete per un tempo relativamente protratto, non quella di un attimo, ma quella che dura addirittura per qualche minuto con queste caratteristiche, è un sintomo che è significativo del fatto che si sta determinando una trazione sul piano retinico. Voi sapete che la retina è la membrana che tappezza l'occhio dall'interno ed è a contatto con una gelatina che si chiama corpo vitreo. Quando questo corpo vitreo tira sulla retina, la retina, che contiene solo fotorecettori, è in grado di dare una risposta che non è quella della sensazione di pizzicotto, come direbbe la pelle, ma dà una sensazione visiva, appunto questo flash. Se il flash si ripete a lungo, vuol dire che la trazione del corpo vitreo sulla retina sta sottoponendo la retina a una trazione meccanica importante. Allora, se la retina, laddove subisce la trazione importante, è una retina debole, come tipicamente quella del miope, allora può succedere che la somma di questi due elementi, trazione vitreale più retina debole, possa portare la retina alla rottura e quindi poi una serie di problemi maggiori che da ultimo potrebbero tradursi in un distacco di retina. Quindi occhio ai lampi. Occhio ai lampi, soprattutto a quelli che durano minuti, non quelli di un attimo. Quelli di un attimo vogliono dire semplicemente che facendo un movimento, per esempio con l'occhio, il corpo vitreo si è mosso all'interno dell'occhio, ha tirato sulla retina e per un attimo si è visto il lampo, che sono le stelline dei fumetti, sì, tipicamente, no? Prendi un pugno e vedi le stelline per questo motivo, perché certo, il corpo vitreo sta tirando sulla retina per un attimo. Ma quello è normale. È patologico quando il lampo dura a lungo senza che ce ne sia una giustificazione plausibile. Il secondo elemento invece, il secondo segnale? L'altro tipo di sintomo è la deformazione delle immagini, vedere storto. Uno guarda lo stipite di una porta e comincia a vederlo deformato, guarda i caratteri di stampa, non li vede normalmente, vede i caratteri deformati, anche addirittura i volti delle persone note. Bene, tutte queste sono delle cose che significano che la parte centrale della retina, la macula, sta subendo un problema, un danno. E siccome il miope è predisposto a questa cosa che si chiama degenerazione maculare miopica, è opportuno che in presenza di una deformazione delle immagini il paziente miope vada a farsi vedere presto da una persona competente, da uno specialista oculista. Quindi, riassumendo, lampi, deformazioni delle immagini, due sintomi a cui prestare particolare attenzione. Vedi, miope avvisato, occhio salvato. Cristiano, buongiorno, da Rieti. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Allora, sono estremamente contento perché sono appena uscito dal dipendimento sul secondo occhio. Sì, sì. Quindi ho terminato adesso questa avventura e adesso sono in convalescenza. È in convalescenza. Allora, Cristiano, quindi ci ha raccontato in diretta che ha appena effettuato questo intervento e professor Bandella ha detto: sono in convalescenza. C'è una convalescenza dopo l'intervento di chirurgia refrattiva? Lo mettiamo un po' tra virgolette. Ci sono delle sì. Allora, innanzitutto diciamo di cosa si tratta. Abbiamo detto che l'occhio miope è un occhio in cui le immagini si formano davanti alla retina. Sì. Noi dobbiamo ridurre la curvatura della cornea, che è la prima lente dell'occhio, che è la parte trasparente che ci fa vedere l'iride dietro, che è come un vetrino di orologio un po' tondo, no? Bene, la cornea quanto più è curva, tanto più l'occhio è miope, quanto più è piatta, sì, tanto più sposta l'immagine verso dietro. Allora, l'intervento di chirurgia rifrattiva consiste, nel caso della miopia, in termini ovviamente molto semplici, in soldoni, che nessuno sogni che io adesso sia preciso nella mia descrizione, però significa piallare la retina, la cornea, sì, appiattirla in una misura sufficiente a spostare il fuoco delle immagini che si stava formando davanti alla retina, lo devi spostare sul piano retinico. E quindi in questo modo correggere il difetto. E in questo modo correggi definitivamente il difetto di vista. È un concetto relativamente semplice che funziona bene in tantissimi casi, ovviamente c'è, come in qualsiasi altra pratica medica, chirurgica, ci sono i casi in cui le cose vanno meno bene. La cosa fondamentale, lo anticipo, forse la anticipo Nicoletta, la cosa fondamentale è scegliere bene i pazienti e soprattutto far sì che il paziente che arriva a fare una chirurgia rifrattiva sia consapevole del fatto che sta facendo un intervento che non può andare solo bene, perché non esiste una cosa che può andare solo bene. È un intervento che può andare talora meno bene di come si prevede e questo per il paziente è più difficile accettarlo in considerazione del fatto che lui non parte da una condizione di malattia come quello che c'ha l'appendicite, ma parte da una condizione di relativo benessere. Infatti si può vivere felici e bene anche con gli occhiali. Con gli occhiali o con le lenti a contatto, quindi se tu dici io voglio fare l'intervento devi essere consapevole che tu partendo da una condizione di benessere stai scegliendo per migliorare la tua vita di fare un percorso che è in tantissimi casi un percorso liscio in cui tutto fila normalmente, ma ci sono pure i casi in cui il percorso non fila liscio e bisogna saperlo prima, altrimenti poi certo, gli scontenti sono... E certo, certamente, naturalmente il paziente deve essere accuratamente selezionato, non tutti i miopi possono correggere questo difetto, ne parleremo, ma chiamateci anche se il difetto l'avete già corretto e se siete soddisfatti oppure dovete fare i conti con qualche effetto collaterale. 800 24 00 24, il professor Bandello rimane con noi, noi adesso andiamo invece a sentire il traffico, sentiamo un po' cosa succede sulle strade italiane, tra poco. Cuore e denari. Occhi neri, assoluti e sinceri, occhi amati e sognati, occhi desiderati. Eccoci ritrovati in diretta. Abbiamo fatto veloce veloce perché vogliamo rispondere a tutti i nostri ascoltatori che ci stanno chiamando. Mettiamo al lavoro il professor Bandello. Allora andiamo a Vicenza adesso da Luca. Luca, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Permetto intanto complimenti. Grazie. Bravo, vi ascolto Luca. Sempre volentieri. Fa bene. Vengo subito al sodo. Io ho una figlia quindicenne. Sì. Che è da una settimana che porta delle lenti particolari, solo lenti a contatto notturne. E ha avuto dei miglioramenti incredibili. Ecco, volevo sentire delle informazioni su questo tipo di lenti. Professor Bandello, speriamo le lenti per correggere la miopia durante la notte? Allora, il concetto è questo. Tu cerchi di modificare, quindi appiattire la cornea, no? Così come abbiamo detto per quanto riguarda la chirurgia rifrattiva, tu cerchi di appiattire la cornea per spostare indietro il foco delle immagini ed ottenere un risultato ottico di soddisfazione per il paziente. Sì. È vero, questo lo puoi fare. Il problema qual è? Che questa deformazione avviene su di una struttura, qual è il globo oculare, che non è una struttura caratterizzata dal fatto che non è di gomma, di un materiale plastico, per cui tu la deformi spingendo da una parte piuttosto che dall'altra e ottieni come risultato che rimanga definitivamente così. Sì. Tu lo cambi, no? Ottieni l'appiattimento, poi dopo un po' di tempo, quando l'appiattimento non lo stai più determinando, l'occhio torna ad avere la forma originaria perché ha una sua plasticità. Certo. Pertanto è sicuramente nel breve termine un tipo di metodica che può dare dei buoni risultati, però bisogna sapere che poi quando quell'uso delle lenti notturne non sarà più fatto, c'è tutto rischio... torna come prima. Certo. Beh, per forza, perché certo, la plasticità del globo tenderà a ritornare ad essere quella precedente. Anna Maria, che ci chiama da Padova, buongiorno, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, io ho 49 anni e sono miope dalla nascita. 25 anni fa ho fatto ad un occhio solo, il destro, la fotoablazione corneale, che purtroppo mi ha fatto diventare ipermetrope e poi successivamente nuovamente miope. Io adesso ho una situazione di meno 3,50 in un occhio e meno 8,50 in un altro, perché appunto l'altro occhio nel tempo non l'ho operato. Sono anche molto astigmatica e sicuramente fra un po' anche presbite, perché insomma è nelle cose. È nelle cose, infatti anche penso che bisogna cogliere l'attimo, il momento, ci sono delle fasi della vita in cui forse si può pensare di rimandare un po' l'intervento, perché così prendi i classici due piccioni con una fava. Professor Bandello, il caso di Laura. Adesso innanzitutto diciamo che 49 anni è la signora, è giovanissima, quindi... Bene, non so Nicoletta cosa volesse dire. No, questo è anche per questa ragione che noi la prendiamo, perché ci piace quando lei dice così. No, diciamo che la situazione della signora non era quella ideale in cui andare a fare un intervento di questo genere. Prima di tutto perché se tu fai un intervento del genere devi prevedere di farlo in entrambi gli occhi, altrimenti la visione binoculare può risultare difficile da realizzarsi, no? Se tu hai un occhio che ha un difetto di vista molto differente rispetto all'altro, perché la correzione l'hai fatta solo in un occhio e non in due. È come portare due tacchi di diverse altezze, uno di 4, l'altro di 12. Alla fine non riesci ad avere la visione binoculare come non riusciresti a camminare normalmente. Ecco. E quindi diciamo la scelta di operare un solo occhio onestamente era già un po' discutibile a priori. Secondo, se tu ti avvicini a una fase della vita in cui la presbiopia è inevitabile che venga, e sono i 40 anni, la presbiopia, come sapete, vale a 40 anni una dioptria di segno più, a 50 anni due dioptrie, a 60 anni tre dioptrie. Quindi tu sai già a priori che la tua miopia, che invece ha un valore di segno negativo, meno, si ridurrà di un valore pari a una dioptrie a 40 anni, due dioptrie a 50, tre a 60, quando devi guardare le cose da vicino. Pertanto bisognava prevedere tutto questo e gestire le cose in un modo tale che la signora fosse contenta di poter vedere bene da vicino e da lontano a seconda della soluzione che si fosse adottata. Sì. Temo che a questo punto sia difficile trovare una soluzione ideale se non si ricorre a un intervento anche nell'altro occhio, o come alternativa non si aspetta l'esistenza di un po' di opacità del cristallino, diciamo la iniziale cataratta, che possa indurre a fare presto quell'intervento che consenta di togliere il cristallino naturale, sostituirlo con un cristallino artificiale che sia in grado anche di correggere il difetto di vista e quindi poi riportare la situazione nella condizione ideale. Professore, oggi gli interventi sono migliorati, sono diventati stavo più efficaci, pensando la stessa sicuri. Cosa, in 20 anni erre geologiche sono passate vero, in questo ecco, campo. Soprattutto no? Gli effetti collaterali sono sempre più rari, sempre a condizione che il paziente venga selezionato per bene. Ma le persone che hanno fatto l'intervento negli anni scorsi non sono soddisfatte, possono ripetere l'intervento? L'intervento può essere ripetuto, il problema è che bisogna vedere per quali motivi il paziente non è soddisfatto. Se il motivo per cui non è soddisfatto è un eventuale danno arrecato al tessuto corneale, il secondo intervento bisogna vedere se è eseguibile, oppure se addirittura eseguendolo tu non rischi di peggiorare la situazione precedente. Quindi forse fare delle affermazioni generalizzate per un discorso di questo tipo rischia di essere eccessivamente superficiale, come purtroppo siamo sempre quando si parla in generale, ma insomma forse in questo caso è eccessivamente superficiale. No, ma la risposta è quindi è possibile selezionando ulteriormente il paziente a seconda dei casi. Il concetto fondamentale comunque è che quando si fa la chirurgia rifrattiva con il laser ad eccimeri si appiattisce la cornea, come dicevamo prima, ma tu la devi appiattire di una misura tanto maggiore quanto maggiore il difetto di vista. Quindi devi piallare questa cornea tanto. Quando tu ti appiattisci tanto la cornea e raggiungi con il tuo trattamento degli strati corneali molto profondi, l'inevitabile conseguenza è che vai a determinare dei fenomeni di cicatrizzazione che possono essere incompatibili con la trasparenza della cornea. È chiarissimo, abbiamo il tempo di rispondere rapidamente a Laura, sei molto sintetica. Buongiorno Laura. Buongiorno a tutti e grazie. Grazie a lei, rapidissima. Sì, io 17 anni fa ho fatto l'intervento del laser alle cimeri e adesso da un anno circa la mia vista un po' si è ridotta, avevo un difetto di 6 gradi circa per occhio. Il mio medico che mi segue da sempre mi dice di non portare gli occhiali perché rischio di compromettere anche il problema della presbiopia. Io di giorno vedo benissimo, la sera faccio un po' più fatica. Quanti anni ha Laura, si può chiedere? Sì, 49, adesso tutti 49, vedi? Ci attaccano il 49, io ci guadagno. Allora, professor Bandelli, in 30 secondi vuole dare un'indicazione, può darla un'indicazione a Laura? Ho capito con difficoltà, nel senso che se la signora ha fatto il trattamento, da lontano mi sta dicendo che vede bene, sì. Giusto? Il suo medico dice di non mettere gli occhiali con la correzione che ha fatto da lontano. Se ha 49 anni vuol dire che lei è diventata emmetrope, cioè non ha bisogno di alcuna correzione da lontano, quindi è zero come valore. A 49 anni deve mettere un +1,75 da vicino per forza. Allora, ci scrive Bruno chiedendoci se è antipatico perché non rispondiamo al suo SMS. Ho recuperato, noi ci siamo... ha una grave miopia, una questione un po' complicata legata al diabete. Esatto, bisogna rispondergli con un po' di calma. Ecco, ci scriva Bruno, professor Bandello, noi la ringraziamo per essere stato con noi in questa bella puntata, per grazie averci aiutato a vederci chiaro. Sì. Buon weekend anche al professor Bandello. Noi ci vediamo chiaro in questo weekend per l'appunto che inizia a breve. Inizierà il freddo. Esatto, arriva la sciabolata artica, cara mamma mia. Mettiamo il cappotto e noi intanto ritorniamo lunedì. Buon Buona weekend giornata a tutti.